Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Vi invito subito a chiamare e a mandare messaggi, magari un po' migliori rispetto a quelli che sto leggendo. 800 24 00 24, per la vostra voce, messaggi 349 238 6666. Buongiorno Pierluigi Pardo. E che messaggi mandano? No, lascia stare. La, non sono per noi, lascia perdere. Ascia, non mi provoca, maccheroni, non mi provoca molte mani. Non lo so, non lo so davvero. Intanto non c'è ancora. Tanto non c'è estate, inizio estate, senza scandaletto, Gomorra in campo, titolo alla Gazzetta, le mani della camorra sulla Serie B dell'anno scorso. Ah, abbiamo tempo per parlarne, tanto siamo abbastanza abituati a questo. Però piuttosto vorrei cominciare con te, professore, se sei d'accordo, dalla nazionale dei preconvocati. Paoletti a casa, Soriano a casa, De Silvestri a casa, Pirlo a casa già da prima a New York, Acerbi a casa e Conte che ha parlato. No, ho pochi dubbi sinceramente, quindi nella mia testa comunque ho già un progetto ben preciso dei 23, oggi potrebbero essere 24-25, ma nella mia testa è già ben preciso il disegno e quindi... Questa settimana lavoreremo così come abbiamo fatto la settimana scorsa, abbiamo la possibilità di lavorare con tutti, certo, valuteremo sicuramente le condizioni di Montolivo e Motta, questo è fuori dubbio perché è inevitabile che il fatto che oggi non siano disponibili può avere un peso importante nelle scelte. Ecco. Intanto un anonimo ascoltatore WhatsApp a Montolivo e Motta a casa, metto subito 1000 euro sull'Italia, che cattivo, eh? Posso dire, sarebbe troppo semplice, ma anche troppo bello, ci perdoneranno molto lì per molto, ma sarebbe fantastico se bastasse, no, toglierseli per avere una squadra da titolo. La verità è che la squadra non è da titolo con o senza molto lì per molto, bisogna fare un'impresa. E mi sembra un conte onesto questo, insomma, che dice le cose come stanno. Poi alcune scelte possono chiaramente lasciare un po' perplessi, perché in una nazionale povera di talento come questa, magari uno come Pavoletti, che era il più caldo e più in condizione, tra l'altro l'attaccante che ha segnato di più nel campionato italiano, ma è anche quello, uno di quelli che ha giocato di più, perché giocava titolare nel Genoa, no? Sì, sicuramente un attaccante di grande condizione, ecco, attaccante di grande condizione, adatto per certi tipi di moduli. E soprattutto sai che quel tipo di reparto, quello degli attaccanti, è un reparto dove se possibile ancora di più la condizione psicologica pesa, no? Perché gli attaccanti, tutti quelli con cui parli, poi ti raccontano che ci sono dei periodi in cui la porta ti sembra piccola come una porticina da subbuteo, e momenti in cui la porta ti sembra invece enorme come una vasca da bagno. Sì. Quindi sicuramente Pavoletti un po' mi sorprende, però è in linea col discorso che ha fatto anche con Immobile Belotti, nel senso che comunque lui ha scelto, anche con Totti se vuoi, lui ha scelto comunque un'utilità rispetto alla squadra che l'ha portato all'appuntamento con la Francia. E aveva premesso, voglio una squadra di Marines, per essere dei Marines ci vuole anche la condizione fisica, cosa che salute, che non posseggono al momento Motta e Montolivo. C'è un malpensante che ha un WhatsApp col simbolo dell'Aquila della Lazio che scrive: io ne metto 3000 di euro se non vanno. Ascolta, a proposito, Prandelli alla Lazio, che ne pensi? È quasi ufficiale, siamo alle firme. È un buon allenatore a cassa di rilancio, è un ingaggio importante. La Lazio farà questo ingaggio, comunque prenderà un tecnico di fascia alta. Io sono convinto che la Lazio abbia una buona squadra. Ieri c'è stata una serata bellissima, fra l'altro, che sappiamo che è una serata che in qualche modo viene vista anche come una contrapposizione rispetto alla presidenza Lodito. Però insomma, intanto sottolineiamo la bellezza di questo rapporto fra generazioni, e il fatto che una volta all'anno i tifosi della Lazio, padri e figli, si riuniscono insieme, ed è una cosa bella, per tutti quelli che amano il calcio, indipendentemente dalla fede calcistica, è una cosa molto bella. E Prandelli bene, anche se ti dico, a me Simone Inzaghi non era dispiaciuto. No, nemmeno a me, infatti, cioè, però... una conferma l'avrebbe anche meritata più di, ad esempio, di Brocchi. A proposito, il curioso caso del Milan congelato fino al 15 di giugno. Allora, succede questo. C'è Brocchi che spera di rimanere, come dice. Senta, ma è vero che lei per guadagnare la stima dei tifosi del Milan l'anno prossimo andrà ad allenare l'Inter per ripagarli? No, questo assolutamente no. Lei rimane? Speriamo, io spero di sì. Adesso Sassuolo va in Europa League, il Milan rimane a Bocca Asciutta il terzo anno, cioè lei vuol togliersi qualche sassuolino dalla scarpa visto che è finito il campionato? No, ma io sono da 35 giorni, 40 giorni, quindi... Allora, questo è Brocchi che ha preso il tapiro. Intanto c'è Abbiati che si ritira ma si propone come bodyguard all'interno dello spogliatoio per prendere tutti a calci nel sedere chi non si comporta bene. Perché non è così che si fa, come ha fatto Bacca, come ha fatto... ci fosse stato Gattuso quando Bacca ha dato i numeri per una sostituzione, avrebbe tirato fuori il coltello, ha detto Abbiati, esagerando, ovviamente. Allora, curioso caso Milan, Brocchi che prende il tapiro ma vorrebbe rimanere e a Berlusconi non dispiacerebbe. Sacchi sponsorizza Giampaolo, Galliani ha sondato Montella, i fantomatici cinesi vorrebbero il solito Emery. Pardo! Che facciamo? Il Milan meriterebbe, dipende che Milan fa. Certo. La scena fantozziana di uno che ha colpito un motorino, non solo io, sono io. Non mi sta venendo a prendere la polizia, perfetto, ok. Allora, partiamo da Brocchi. Brocchi certamente non ha fatto bene dal punto di vista dei risultati, questo è indiscutibile. Detto questo, io l'altro giorno ho visto il miglior Milan della stagione e lo ribadisco, perché il Milan ha fatto delle partite migliori dal punto di vista del risultato, contro la Fiorentina, per esempio, contro l'Inter, derby di ritorno, ma sono state partite dove essenzialmente ha trovato il gol ed è ripartito. Mihajlovic aveva fatto una cosa intelligente e sana, probabilmente legata a quello che è il tipo di materiale umano che ha a disposizione, cioè aveva scelto a un certo punto la strada di un Milan provinciale, nel senso buono del termine, cioè di un Milan che si gioca senza fronzoli. Brocchi ha provato a fare un discorso più alto in nome dei gusti del presidente, dal punto di vista dei risultati è andato male, qualcosa si è intravisto, sinceramente qualcosa si è intravisto. Io penso che comunque in una partita di Coppa che contava anche per la Juve, al netto delle assenze della Juve che pesavano, insomma, i 120 minuti dell'altro giorno per una squadra nettamente inferiore come il Milan siano un buon punto di partenza. Quindi non sarei così sorpreso se Brocchi alla fine venisse confermato. Sì, siamo sempre comunque ai dettagli, non certo a un periodo di continuità, ma a singole esibizioni. Allora, facciamo così, ci fermiamo un attimo. Giorgio De Luca, ovviamente, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Federico Bini in redazione, i convocati all'8 00 24 00 24. Pardo, stai lì, perché dopo il traffico dovrebbe arrivare un grande tifoso del Milan che però fa un altro mestiere, cioè gioca a pallacanestro nella NBA. Tutti convocati. Tutti convocati. Ricezione da fermo per Gallinari, 7-6-5, passo d'incrocio contro Spence, se la butta sul tabellone, come Moses Malone, oh mamma mia, Danilo Gallinari, bravissimo Cicciarini per Gallinari, il re del tiro strano, oh famo strano stasera. Been... 8, 7, Gallinari dietro la schiena, prende il tiro! Il tiro di Gallinari! Pari! Pari! Danilo Gallinari! Un leone! Un leone! 6 secondi, 5 secondi, Danilo step back! Danilo step back! Il miracolo italiano! Il miracolo italiano! Guardo, come tu sai, basket è sport che nel cuore mi sta, e Danilo Gallinari qui è di casa. Ciao Danilo. Il mondo, ma lo sai. Ecco. Sai come la penso. Poi il calcio è una cosa più grande, se possibile. Senza che nessuno si offenda, c'è una religione, una bellezza, gli fenomeno pop, l'ho detto mille volte. Però come gioco, sai che io un debole per il basket. Ciao Danilo. Ciao. Come stai? Bene, tutto a posto, voi? Benissimo, io bene, Pardo benissimo. Cioè... io Gallo sta meglio io. Ho visto l'ultima puntata di Tiki Taka. Come sei stato, sinceramente? Molto bene. Bene, bisognerà rifarla poi più quando avanti. Vuoi. Ma vengo anch'io in America tranquillamente. Certo. Esatto. Sì, che ce vuoi? Andare a Denver, un off-site da Denver, cosa vuoi che sia? Danilo, l'ho fatto fare l'altro giorno a Berinelli, adesso lo faccio fare a te. Fai Obama, OKC contro i Warriors, siamo 2-2, Cleveland-Toronto, siamo 2-2, fai Obama. Ci sarà la finale, devo dire la finale? Sì. Finale Golden State-Cleveland. Golden State allora, Cleveland banale, e vince Cleveland, la pensi come Berinelli. Ma adesso più difficile, fammi anche quella del campionato italiano, dove Milano ieri ha perso contro Venezia 2-1 e non sta giocando una grande pallacanestro, a differenza secondo me di Reggio Emilia. Finale Milano-Reggio, vince Milano. Qui parla il tifoso. Vabbè. Esatto, esatto. parla anche la logica, dai. Parla anche il fatturato. La logica, il fatturato fino a un certo punto, Pardo. Perché lì, certo, forse per il fatturato, forse per l'estratto conto, Milano vincerebbe il campionato tutti gli anni, ma non è esattamente così. E Danilo lo sa perfettamente. Esatto. Dani, come la vedi la situazione del Milan? Prima che te lo chieda Pardo, te lo chiedo critica, io. Critica, molto critica. Molto critica, tornare ai livelli di qualche anno fa, passeranno degli anni, quindi non lo so, vedremo come verranno gestiti i cambiamenti, nuove proprietà, nuovi ruoli in società, non lo so, vediamo. Ma tu sei per gli occhi a mandorla? Beh, io penso di sì, anche perché si serve dei budget più alti per competere con altre squadre europee, bisogna alzare il budget, e oltre ad alzare il budget chiaramente fare anche dei programmi, organizzare la situazione un po' meglio anche sul campo, però sicuramente bisogna partire da un budget un po' più alto. Sì. Allora, facciamo Gallinari direttore sportivo e Abbiati bodyguard nello spogliatoio, abbiamo detto, no? Quello è un tema interessante, perché questa cosa di Abbiati, che oltretutto è uno di quelli che conosce il Milan da più tempo in maniera più approfondita, insomma è un segnale molto preciso. Vuol dire, io l'altro giorno sono rimasto, ero all'Olimpico, dei posti bellissimi, e devo dire la verità, insomma la cosa di Balotelli ci ha accorti tutti, che dopo la sostituzione è sceso, che scende a fare, cioè succedono delle cose al Milan, Balotelli, ma non solo Balotelli, perché tu hai ricordato prima il caso di Bacchia, cose che 10 anni fa non succedevano, questa è la verità. Questa è la verità. Intanto sto leggendo vari messaggi per Gallinari. Danilo allo Star Game, noi ci crediamo, e Denver ai playoff senza Bishop si può. Lorenzo D'Ancona, oppure, ma un pensierino ai Pistons, no, Van Gundy l'unico a valorizzarlo come si deve. Ale 71, ma vediamo, dai, adesso sarà un'estate molto movimentata, quindi vediamo un po', dai. Sì, movimentata lo speriamo tutti a partire da luglio, no? Molto movimentata in chiave azzurra con... Esatto, molto, molto più importante il colore azzurro della nazionale che quello di Denver da luglio in poi, quindi... Senti Dani, ma come la valuti la scelta del vice allenatore, dell'allenatore dei San Antonio Spurs alla guida della nazionale part time, perché è in corso una lunga diatriba? Ho fatto la stessa domanda a Berinelli anche l'anno scorso. Io sono favorevole, e tu hai già vissuto questa situazione, al commissario tecnico part time. Secondo me è una logica che potrebbe essere praticata anche ad altri sport. Sì, secondo me sì. Io penso che un allenatore che fa solo nazionale a tempo pieno perda qualcosa, e quindi io sono per un allenatore che comunque fa allenatore di club e poi dopo d'estate farà nazionale. Sì, io sono della stessa idea, Pardo un po' meno, vero? No, io sono dell'idea che deve valer la pena. Sono dell'idea che deve valer la pena e che non devono essere, cioè che non ci si debba far divorare da mindset, da polemiche o da pregiudizi o da problemi prima che esistano. Quindi è chiaro che poi se non le vale la pena è meglio una soluzione un po' più smooth, no? Un po' più morbida, un po' più tradizionale. Ma com'è l'Italia vista da lì? Proprio in generale, complessivamente, ti manca? Che cos'è che ti manca di più dell'Italia nei lunghi mesi passati lì? Hai la sensazione di un paese in crisi oppure di un paese che invece si sta riprendendo? Siamo percepiti? Scusa la domanda, che praticamente è una domanda a piacere. Secondo me gli manca poco o niente, posso dire. No, un po' alla fine. Beh, i miei amici, la mia famiglia, i miei amici sono più cari, sono tutti italiani, quindi mancano un po'. Vittorio, Marisa e i fratellini, va bene, ok, ma ti vengono a trovare quando vuoi. Esatto. Però vabbè, manca il cibo, manca la famiglia, però la percezione che si ha di là dell'Italia è, non lo so, un po' un paese fermo forse, poi in un limbo fermo, non lo so, però non sono un grande esperto, però la percezione è quella, sono i soliti stereotipi che però abbiamo creato tanti anni fa. Sì. E basta. Senti Dani, un'ultima cosa che chiede un ascoltatore, chiedete a Danilo se giocare con i miei adorati Knicks è più impegnativo che farlo con qualsiasi altra squadra. È una situazione sicuramente diversa, che tu vinca o perda, sei in una città che è completamente diversa da tutte le altre città americane, quindi sei bersagliato quotidianamente da media, giornali, ogni allenamento, sono 30 giornalisti, televisioni, ogni allenamento per tutta la stagione, quindi c'è un'attenzione particolare. Grazie Danilo, vieni a trovarci presto, che è un po' che non ci vediamo. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao Dani. Passa di qui con Vittorio. Allora Pardo, adesso tra pochissimo ci fermiamo per la borsa e poi abbiamo un sacco di altri temi, riprenderemo i discorsi sulla nazionale, sui preconvocati, sul Milan, Brocchi spero di rimanere. Ah, ce n'è un altro, la Juventus alle prese con il rebus Morata. Ha parlato Allegri ieri, tra l'altro festa del Cagliari per la promozione in Serie A, una grande serata con un'intera generazione di Conti in campo, da Bruno al nipotino. Allegri su Morata cosa ha detto? Io credo che sia un segno della continuità, io credo che Morata sia un ragazzo ancora, cioè giovane, perché ha solamente 23 anni e ha bisogno secondo me di stare ancora qualche anno alla Juventus, perché ha bisogno di crescere. Poi ho un reparto di attaccanti molto, molto forte, perché da Mandzukic, Zaza, Dybala e Morata sono tre ragazzi giovani con un giocatore più esperto come Mandzukic. Questo ha detto Allegri, la sensazione che è quasi una certezza che Morata vada via per quel diritto di ricompra che ha il Real Madrid e come dicono tutti lo girerà al miglior offerente, questa è la soluzione, no? Sì, è che lui faccia il possibile per provare a fargli capire che forse per la dimensione di Morata, e non è sbagliato, la Juve rimane una grande soluzione. Io penso che sia così, perché io credo che andare a fare la panchina a Cristiano Ronaldo, francamente, non bravo, sia o la rotazione con Benzema, oddio, l'ha fatta con Mandžukić, ma l'ha fatta con Mandžukić forse per sue colpe, sinceramente, no? per meriti di Mandžukić. Insomma, secondo me la Juve è una dimensione dove Morata si può esaltare. È chiaro, come dicevo l'altro giorno, che poi non è facile convincerlo, perché comunque Morata non è esattamente di Pinerolo o di Piofrasco o nemmeno di Castellammare di Stabia o di Soverato. È uno che comunque nel Real Madrid c'è nato, ci ha vissuto. Il Real Madrid è uno dei club più importanti al mondo, se non il più importante, e quindi è chiaro che ci sta questo tipo di soluzione. Non è facile, non puoi legarti agli aspetti sentimentali. No, questo no. Ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. 800240024 per intervenire, far sentire la vostra voce. 349-238-6666 invece per scrivere. Sì, un avvio abbastanza scoppiettante. Laser, fumogeni e bomboni. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Parabrezza rotto? Sostituisce. Si ricomincia. Tutti convocati. Tutti convocati come ogni giorno e per tutta l'estate. 800240024 il numero verde. Giovanni Milano, buongiorno. Ciao ragazzi, grazie per la convocazione. Ciao. E sono appena passato dallo stadio San Siro, sale la febbre della finale Champions. Sabato sera. Sì, no, tra l'altro qualche problema fisico, dicono le ultimissime da Madrid per Cristiano Ronaldo, ma pare niente di particolare. Speriamo di no, dai, perché c'è mio figlio piccolino che lo vuole vedere. A questo proposito, ci mi chiedono se sapete dirci dove, viene piazzato il Real Madrid, in qualche centro sportivo. No, poi seriamente parlando sulla questione di Conte e della Nazionale, ma non riusciamo noi a creare una cantera a livello di Nazionale? Cioè fare in modo che si possa avere, dire, un progetto per cui i ragazzi ICT, cioè tutta la banca, il settore tecnico, sia veramente programmato, perché assistere a questo continuo cambiamento di CT eccetera destabilizza e non crea anche, dire, degli interessi da un punto di vista sportivo, secondo me, perché adesso io non so se Ventura sia o non sia un buon allenatore. Come nazionale lo vedremo. Abbiamo espresso gradimento e qualche perplessità, sia io che Pierluigi Pardo. Inutile starle a ripetere quanto sul primo argomento, creare una cantera relativa alla nazionale. Qualche idea c'è già stata, ma mi sembra un progetto molto ardito, Piero. Sì, anche se la scelta mi pare di Lippi commissario, sì, di supervisore, con, diciamo interazione un pochino più precisa con i settori giovanili. Sì, ma c'era stato anche Sacchi, anche ragazzi, Sacchi era passato di lì con quel ruolo. Però nel calcio di oggi sono i club, sono le società che ci devono arrivare. Oggi a pagina 9 della Gazzetta c'è tutta la verità sullo stato del nostro calcio. Io penso che leggere quella pagina 9 con un po' d'attenzione, mettendo una serie di elementi, ti dice tutto sulle virtù e i vizi del nostro pallone. Abbiamo un fatturato che è il quarto tra i cinque principali campionati europei, davanti soltanto a quello francese. Il problema non sono i diritti televisivi, al di là delle polemiche, ma io parlo della cifra totale. La cifra totale dei diritti televisivi è da capolavoro, perché noi siamo il secondo paese al mondo col più alto livello di diritti televisivi. Dove siamo invece delle pippe, si può dire delle pippe alla radio, sono in tutta una serie di altre cose. Quindi noi dobbiamo tenerci la nostra virtù, che è stata la vendita dei diritti televisivi su livelli impressionanti, e dobbiamo cominciare a fare soldi, perché poi il discorso è molto banale, su tutta una serie di altre cose. Gli stadi, dove siamo clamorosamente indietro rispetto ai paesi di proprietà. Non è che lo fai dall'oggi al domani, cioè, no, questo è un progetto a medio-lungo termine, considerate anche le lungaggini. Quanti stadi vedi in costruzione ora in Italia? No, sono d'accordo con te, però voglio dirti che se dobbiamo dire le cose come stanno, altrimenti possiamo dire piove governo ladro. E noi, le società si devono muovere in questa direzione, e si devono muovere anche nella direzione dell'internazionalizzazione, della globalizzazione, della moltiplicazione degli introiti di marketing e merchandising. C'è una pagina 9 della Gazzetta, Iaria, non ho mai capito, molto bravo, collega della Gazzetta, scrive cose interessantissime, e ci sono una serie di specchietti perfetti che raccontano esattamente tutto quello che... la comparazione fra i cinque principali paesi. E noi abbiamo, ripeto, a parte i diritti televisivi, dove siamo bravi, comunque abbiamo una cifra importante, sul resto siamo dietro a tutti. Sì, detto questo, possiamo anche dire che, insomma, le generazioni di calciatori sono anche qualcosa di aleatorio. Certe volte ce le hai, delle generazioni forti, ma vale anche per il basket. L'altra sera ne parlavamo prima con Gallinari, mai forse c'è stata una generazione così ricca di talento come questa, una nazionale così ricca di talento assoluto come questo, in un campionato dove pure gli stranieri sono quanti nel calcio, se non di più, no? Guarda, l'altra sera ero a cena con Ventura, non da soli, ma a margine del premio Calabrese a Sorino Fiumino. È stata una serata bellissima, ne ha scritto Andrea Scanzi, che era lì con noi, c'era Alessandro Bonan, c'era Di Piazza, c'era Simona Rolandi della Rai. Insomma, è venuta fuori una tavolata bellissima. E al di là dell'aspetto, che non c'entra niente su se mai sarà un buon CT o non un buon CT, ancora una volta Ventura si è mostrato per una persona deliziosa, deliziosa, con una leggerezza e una felicità e una tranquillità nel proporsi, nel chiacchierare, nel ridere, nello scherzare, che probabilmente altre persone nella sua situazione, cioè di quelli che stanno per essere chiamati probabilmente, certo, per questo ruolo, non la però si è fatto un discorso veramente a 360 gradi sullo stato di salute del nostro calcio. Noi abbiamo la difesa che continua a essere veramente una grande eccellenza italiana, e poi abbiamo degli attaccanti esterni e degli esterni di grande qualità. Poi avremmo anche un centrocampo interessante, ma purtroppo fra Verratti e Marchisio siamo veramente acciaccati, al di là dei problemi di Montolivo e Thiago Motta del momento, e abbiamo un grande problema, che è la punta centrale. Certo. E questa punta centrale probabilmente dovremmo costruirsela in casa, cioè dovremmo adattarla o adattare il nostro modulo di gioco un po' tipo la Roma, no? La Roma ha una punta centrale come Dzeko che non ha funzionato, Spalletti ha creato un sistema diverso, certo, o magari Dzeko non ha funzionato perché Spalletti gli ha creato un sistema diverso nel quale Dzeko c'entra poco. Lasciamo il dibattito ai poster, come dicono quelli bravi, ai posters all'inglese. Però è questo, la nostra forza è quella, la difesa che ancora tiene. Certo, bisogna puntare sugli elementi di forza che hai, poi certo non è una generazione di fenomeni questa. Saluto Alessandro Alciato, che piacere. Ciao Ale. Ciao. Piacere mio, buongiorno. Come stai, Alci? Ti manco sempre? No, per sempre niente. Di meno. Sempre però l'altro giorno mi ha mandato un messaggio carinissimo, ci ho quasi creduto, un messaggio carinissimo, ti ringrazio. Facciamo ce la faremo, prima o poi ce la faremo, Alci, ce la faremo. A fare che? Ricongiungerci il matrimonio no, perché ma io e Alciato abbiamo vissuto insieme, quindi lo so, è una macchia nella mia vita, quella macchia indelebile. Ognuno ha le sue. Non te la menare, ognuno ha le sue colpe, non può farci niente. Senti, t'ho visto destreggiarti questa mattina tra Chiellini e Buffon, qual è l'umore del gruppo? Mi sembra un umore molto alto, soprattutto prima Buffon, poi Chiellini, poi Conte poco fa in conferenza stampa hanno usato il verbo sognare. Sognare cosa vuol dire? Vuol dire magari raggiungere un obiettivo che non pensi totalmente alla tua portata, perché adesso se qualcuno dice l'Italia può vincere l'Europeo viene preso per matto quasi, però c'è questa voglia di sognare, e quindi sentire da tutti e tre questo verbo mi ha fatto pensare che è vero, nessuno si senta addosso la possibilità di vincere l'Europeo, però in fondo il sogno stia nascendo e si stia alimentando, anche se siamo al primo giorno di ritiro. Sì, poi sai che il confine tra sogno e illusione è labile. Eh sì, e lì sarà nella bravura di Antonio Conte nell'azzerare questo confine o comunque nel renderlo minimo. Lui è una certezza, l'altra certezza è che insomma la qualità di questa squadra non è eccelsa, quindi il lavoro di Conte conterà molto, come secondo me conterà molto la presenza all'interno dello spogliatoio, al di là di quella di Buffon, di Chiellini, che sono insomma due certezze e già lo erano tanti mesi fa, quella di Daniele De Rossi, perché lui è stato invece in forse fino a pochi giorni fa, è stato inserito nella lista dei 30 perché... perché ha fatto dei test, mi hanno raccontato, straordinari, dei test fisici qui a Coverciano, come per dire, ok, cioè io non sono uno che deve avere il posto garantito, mi metto in discussione, questa è la mia risposta. Ho detto davvero dei test atletici e fisici straordinari nei giorni scorsi a Coverciano, sì, per De Rossi. Sì. De Rossi è uno che dipende dalla condizione fisica, è un personaggio che a Roma spesso viene romanzato, anche troppo. Un po' perché lui è predisposto, no? Nel senso che è un calciatore interessante, è un calciatore che quando parla, raramente l'ha detto, ma quando parla dice sempre cose molto, molto schiette, e quindi che polarizzano e che dividono. È un po' perché chiaramente Capitan Futuro a Roma è stato sempre, no, visto come un giocatore speciale, e nel bene e nel male, quindi con gente a favore e gente contro. La verità su De Rossi è molto semplice. De Rossi è un grande giocatore quando sta bene. Qualche volta ha dei cali di condizione, spesso dovuti anche agli infortuni, che lo rendono un giocatore normale. Ma De Rossi che becca 40 giorni buoni e che, cioè per me è titolare dell'Italia per decreto, perché è un giocatore anche che qui ci sono, Pier, scusa se ti interrompo, ma veniva bene insomma col tuo discorso, non dimentichiamoci mai che una nazionale senza Verratti, senza Marchisio, certo, ma con Thiago Motta e Montolivo, che non sono certi del posto, e Conte, proprio pochi minuti fa qui a Coverciano in conferenza stampa, è stato chiaro, ha detto, io l'ho detto anche ai ragazzi, qui non siamo nelle condizioni di aspettare niente e nessuno. Tradotto, faranno gli esami fra oggi e domani, se quegli esami diranno che il loro recupero può essere più lungo del previsto, né uno né l'altro faranno parte della lista dei 23. Quindi insomma, un Conte è stato molto chiaro, e un Conte che però ancora una volta ha sottolineato il fatto che là, in quel settore, ci sono i veri problemi di questa nazionale. Sì, non si fa fatica a immaginarlo. Ci fermiamo un attimo per il traffico. Ale, sta lì ancora un minuto. Tutti convocati. Con Pierluigi Pardo e Alessandro Alciato di Sky stiamo parlando di nazionale, di problemi a centrocampo, ci sono i soliti come dire, pessimisti senza, o ironici, senza Thiago Motta e Montolivo forse ce la possiamo fare, Alberto da Ferrara, e c'è chi fa il nome di Soriano, ma con questa penuria a centrocampo, Soriano che non va, ma perché? Non so, vi giro l'interrogativo a cominciare dal Ciato. Perché non ha fatto un grandissimo finale di stagione, ma poi io vi giro la risposta di Antonio Conte in conferenza stampa poco fa, dice: non pensiate che io sia matto, io ho già in testa addirittura i 23, non solo i 30 che sono qui, e tutte le scelte sono state fatte perché abbiamo valutato condizione fisica, momento del giocatore, utilità all'interno del sistema di gioco che utilizzeremo, che in questo caso è il 3-5-2. Quindi insomma questa è stata la risposta di Antonio Conte in conferenza. Sì. Conte parte dalla certezza più certezza che ha. Sappiamo che Barzagli, soprattutto Barzagli, ma anche Bonucci, nel momento più difficile della Juve hanno alzato la voce, hanno alzato il ditino e hanno detto, sulla base della loro esperienza, Buffon sicuramente tra quello che era il tipo di modulo preferito, ma non per un capriccio, per una valutazione tecnica costruttiva. E Allegri, che certamente persona intelligente e non dogmatica, ha messo in pratica questo tipo di volontà e i risultati sono alzati. Io credo che Conte parta dall'eccellenza più certa che abbiamo, l'unica forse, cioè la qualità della difesa. La difesa è veramente su livelli importanti. Se avrà gambe, ovviamente, se avrà forza e condizione, dopo la stagione usurante che ha 1000 punti interrogativi, ma non solo per noi, la difesa è il nostro punto di partenza. E quindi è chiaro che giocare a tre ci toglie una serie di... ci complica la vita ad altre eccellenze. Ad esempio a Insigne, certo, che è un giocatore che secondo me, per il valore assoluto che ha, in un modulo diverso, è una follia non portare. No, cioè, ma io penso al ballottaggio, sono pochissimi i ballottaggi, resta in ballottaggio con allora c'è un ballottaggio nel ballottaggio, c'è una scelta che Conte deve fare: portare 4 o 5 di quelli che attaccanti. Ha inserito nell'elenco degli attaccanti. Al momento sono 5, saranno 5 ovviamente, il ballottaggio numero 2 non esiste più. Se invece saranno 4, dovrà lasciarne a casa uno fra Immobile e Lorenzo Insigne. Che sono anche due giocatori diversi, fra l'altro. Molto diversi. Assolutamente. Per caratteristiche. Però ecco, francamente questo fa un po' effetto, perché Insigne è un, secondo me è uno dei pochi giocatori di livello veramente internazionale che abbiamo. Però la spiegazione... Sì, reduce da un grande campionato. La spiegazione è di natura semplicemente tattica. Ma io mi auguro che sia di natura eminentemente tattica e non sia di natura disciplinare per tutto il progresso che c'è stato, perché sarebbe una sciocchezza. Ragazzi. Soprattutto ha detto Conte, a proposito di discorsi tattici, che comunque Insigne lo vede nel 3-5-2 come una delle due punte, perché qualcuno gli ha chiesto, certo, scusa, ma se non giochi... No, questa in effetti era una dichiarazione mia banale, però ti spiego perché l'ho detto, perché qualcuno gli ha chiesto, però se non giochi a tre, giochi a due, a cosa serve Insigne? E lui ha risposto, no, è come, a cosa serve? Io lo vedo come quando convocavo Giovinco, uno che può giocare là davanti nei due. Non è che il fatto di giocare a due escluda subito automaticamente Giovinco. No, però giocare da seconda punta, Insigne ha dei rivali. Da esterno in un tridente non ne ha. Ma il tridente non è il sistema di gioco dell'Italia in questo momento. È la spiegazione, secondo me, ma molto laica, molto, molto trasparente, di perché un giocatore eccellente come Insigne rischia il posto in nazionale. Perché Conte, secondo me, legittimamente alla fine ha scelto di partire da quella che è la certezza più grande che ha, sì, e cioè la difesa. E sì, la difesa, chiaramente, giocando a tre, il 3-4-3 non lo puoi fare, perché comunque non lo puoi supportare, non hai la forza per farlo. Vai inevitabilmente a fare il 3-5-2. Il 3-5-2 è un tipo di modulo dove Insigne l'esterno a centrocampo non te lo può fare, come seconda punta è buono, ma non è più così devastante come sarebbe in un sistema diverso. Senti, io volevo chiedere ad Alessandro Lacciato un'ultima cosa che non riguarda la nazionale, ma al Milan, riguarda le parole, riguarda la lunga intervista che ho letto sulla Gazzetta dello Sport ad Abbiati. Ne abbiamo parlato prima con Pardo, si propone come bodyguard all'interno di quello spogliato. Ha detto parole anche molto... molto dure, come avrai letto, Alessandro. Per come andava la squadra, mi vergognavo a uscire. 4-5 elementi non hanno fatto quanto gli veniva chiesto. Gattuso avrebbe tirato fuori il coltello qui, boom, esageriamo. Il futuro mi piacerebbe un ruolo utile per far rispettare le regole, se ce n'è davvero bisogno. Bodyguard, eh? No, non sottovalutiamo una cosa: Abbiati non parla mai. quando parla, però, dice le cose che abbiamo letto questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Sostanzialmente, però, ha reso ufficiale quello che intuivamo tutti, no? Che ci fosse qualcosa che non andasse in quello spogliatoio. Quante volte anche durante le nostre trasmissioni a Sky Costa Curta e Boban hanno detto: ma lì dentro, quando c'eravamo noi, certe cose non sarebbero mai successe. In effetti, voi scegliete un giocatore del Milan attuale che si possa alzare e dire a qualcuno che sta dicendo le cose fuori posto: adesso tu stai zitto. Abbiati. A me non viene in mente Abbiati, ma Abbiati adesso non c'è più, quindi sostanzialmente ne sono rimasti pochi o probabilmente nessuno. E quello è uno dei problemi grandi, non di quest'anno ma degli ultimi anni del Milan, da quando sono andate via le bandiere. Certo è che non puoi giocare con quarantenni, però magari uno all'interno dello spogliatoio o due giocatori che caratterialmente sono da Milan li puoi scegliere, invece certo. Questo negli ultimi anni non è successo, e quindi Abbiati ha raccontato la verità. Problema di leadership, ma l'abbiamo detto e sottolineato molte volte. Grazie Alessandro, a presto. Grazie a voi. Grazie Alessandro Lanciato. Facciamo in tempo, Pierluigi, di corsa, certo. A sentire Paolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica Paolo, grazie all'attesa. Chiedevo un vostro parere tecnico sulla scelta dei portieri. Sì. E sapere perché, cosa ne pensate voi di quello che io considero il miglior portiere italiano di questi ultimi anni, che è quello Sportiello. Del Sassuolo. Chi? Quello del Sassuolo. Che ha salvato l'Atalanta, che ha fatto un campionato strepitoso. E perché non è, secondo voi, stato considerato? Perché la scelta di Conte, lo stesso ragionamento vale anche per la mancata convocazione di Donnarumma, che qualcuno considerava. Vabbè, ma dai, ma tanto gioca il titolare Buffon. Ma esatto, è la scelta. Non è, e devo dire la verità che mai come in quel tipo di reparto la scelta è logica, è condivisibile. Certo, comunque c'è un titolare assoluto e ci sono due scudieri di buon livello che da tempo fanno il secondo e il terzo in questa nazionale, che meritano, e comunque hanno avuto due buone stagioni, comunque due stagioni discrete, e meritano di andare lì. Secondo me è un ruolo che non ammette turnover, quindi titolare Buffon, punto e basta. Ha fatto una stagione meravigliosa. Tra un paio d'anni, quando Buffon magari inevitabilmente dovrà lasciare, ammesso che poi non decida di lasciare dopo gli europei, ma sarei sorpreso vista la voglia e la condizione che ha, che è ancora straordinaria. Insomma, quando Buffon non sarà più all'altezza, perché quei giorni inevitabilmente arriva per tutti, a quel punto si apre la caccia per la successione. Sono d'accordo, certamente Sportiello, Consigli, ci sono lo stesso Donnarumma, gli stessi Sirigu e Marchetti. Allora lì diventa divertente. Perin, al di là delle disavventure sui social. No, ma io direi che guarda, sui portieri siamo. Se c'è un ruolo su cui possiamo stare mediamente tranquilli, è quello dei portieri. È chiaro che adesso Buffon, reduce da una stagione di questo tipo, è titolare, punto e basta, e che non. Non gli venga nemmeno un raffreddore. Ciao Pier, ci sentiamo domani. Ciao, un abbraccio. GR, poi torniamo e avremo il maestro Bartoletti a fare le pagelle, come ogni martedì. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Dinamicissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. State ascoltando un programma offerto da Parabrezza rotto? Carglass ripara, Carglass sostituisce. Tutti convocati. Subito la palla a Mattia da Pescara, che ci aspetta da prima. 800 24 00 24, il numero verde per i nostri ascoltatori. Buongiorno Mattia. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Allora, volevo parlare della nazionale brevemente. Sì. Ho ascoltato con attenzione Alciato, che parlava prima di questo, già che si parla del presupposto che è sognatrice questa nazionale, non si parte col piede giusto. Poi le convocazioni, secondo me Conte poteva osare un po' di più, visto che è un CT dimissionario e quindi ha poco da perdere fondamentalmente sia lui sia l'Italia. Venendo anche dall'esperienza del Brasile, che è stata poco positiva. Per osare, quindi, di più, che cosa intende? Convocare per esempio gente nuova. Ho capito che Conte è legato molto al suo gruppo, però gente però come Eder, che ha segnato un gol in sei mesi, Pelé ha fatto una stagione molto deludente, Immobile ha fatto 5 gol in 14 presenze in 6 mesi. E lì abbiamo dei problemi, però io capisco anche Conte, che lavora con questa squadra da 2 anni, non è il tipo da inventarsi soluzioni dell'ultimo minuto, quindi a me sorprende abbastanza poco. Se poi sotto traccia facciamo riferimento ad esempio a Francesco Totti, io ho sempre detto che a me sarebbe piaciuto vederlo in nazionale, però normalmente non abbiamo mai avuto dei commissari tecnici con enorme fantasia, mettiamola così, con grandi visioni di oniriche, se vogliamo, di questo tipo. Quindi i giocatori di Conte sono questi, ci lavora sopra da 2 anni, si fida di questi ed è un allenatore così, quindi a me non sorprende tanto questa soluzione, questa idea. Poi siamo ai preliminari, nel senso siamo all'istone dei 30, alle prime convocazioni, poi alcuni arriveranno, altri usciranno. Conte ha già perfettamente in testa, come lui stesso ha ammesso, la lista dei 23, e con questi ci andremo a giocare l'Europeo, sperando che i giocatori cardine possano godere di buona salute. Al momento gli indicatori non sono un granché. Domenico, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Niente, volevo parlare un attimino, vedo che voi, ma anche la stampa, si salta la Juve come se fosse una squadra leggendaria. Negli ultimi 20 anni ha fatto una finale di Coppa dei Campioni eliminando il Monaco in finale. Non mi sembra, cioè in Italia purtroppo diciamo, non c'è concorrenza, però tutta questa squadra, la squadra loro, il Milan di Sacchi, la Juve di Platini, l'Inter di Mourinho, cioè questi che usano extraterrestri. L'Inter di Mourinho ha fatto triplete, come sappiamo, un grande ciclo, però è stato un ciclo finito presto. La Juventus in questa stagione ha bucato la partita di Siviglia e credo sia questo il grande rammarico, però sappiamo tutti come sono le coppe, sono qualcosa di estremamente aleatorio e quindi ci sta anche di finire fuori con un avversario come il Bayern Monaco, con questo rosicchiandosi le mani fino ai gomiti, perché poi abbiamo visto come il Bayern Monaco in questa edizione del Bayern Monaco non fosse particolarmente irresistibile. Quindi non parliamo di squadre leggendarie, le squadre leggendarie sono appunto quelle che aprono dei cicli interni ed internazionali di grande importanza, ma io credo che la Juventus possa avere questo tipo di respiro economicamente e dal punto di vista organizzativo. Anzi, credo sia anche l'unica squadra che possa avere questo tipo di respiro, no Domenico? Non è leggendaria, come dice Agnelli. Beh, vabbè, leggendario però si può sempre diventare, dell'augurio che possiamo fare a loro signori in bianconero, soprattutto ovviamente in chiave europea. Maestro Barino Bartoletti, buongiorno dal Giro d'Italia. Buongiorno, sono sull'attenti davanti alla piazza di Andalo, dove sta per arrivare la 16ª tappa di un divertente Giro d'Italia. Molto divertente e molto incerto, anche perché l'incertezza è il sale di quello di cui parliamo tutti i giorni, cioè lo sport. Le grandi dittature divertenti non lo sono mai, come ben sai Marino. Ascolta, sai, io Carlo, quando io arrivai al Corriere Sportivo per la seconda volta nel 1982, poi ne sarei diventato direttore, ci fu un collega bravissimo e crudele che si divertì a mettere assieme tutti i pronostici che erano stati fatti dalla stampa italiana sui mondiali dell'82, e ti assicuro che riletti dopo non era divertente perché li aveva scritti. Beh, anche sul Giro di quest'anno effettivamente sfido chiunque a immaginare chi era la coppia di testa in questo momento della classifica generale, ma scusa ti ho interrotto, andiamo avanti. Andrei avanti con questo anziché parlare di ti chiederei di dare un vuoto a tutti noi che non riusciamo più a sorprenderci del puntuale scandaletto estivo Serie B dell'anno scorso. 2 partite, oggi leggo in salsa rosa Gomorra in campo, 2 partite relative all'Avellino, il procuratore Beatrice. Per me non è cambiato niente, nel senso che io credo che il sistema, se un sistema è un po' malato, per usare un aggettivo intermedio, io credo che ci vuole molto tempo per poterlo risanare, e credo che questo sia soltanto un aspetto, ma io credo che gli aspetti siano molto più rilevanti, soltanto che poi bisogna vedere chi li approfondisce. Allora Marino, un voto a tutti noi che non ci facciamo più caso. Carlo, io sono rimasta quando Beatrice giocava nella Fiorentina, sinceramente, adesso lo riscopro, sì, procuratore della Repubblica, sì, ma a parte questo, non dico che mi sento di assolvermi e di assolverci, anche perché poi noi possiamo vigilare su quello che possiamo vigilare, non possiamo andare oltre, soprattutto non possiamo vigilare sull'idiozia umana. Io appartengo a una generazione, l'ho detto prima citando il 1982, e io c'ero in quella finale benedetta, ed ero già giornalista, professionista, eccetera, eccetera, eccetera, che un bel giorno, nell'aprile del 1980, venne paracadutato dallo stadio comunale di Torino, dove ero per Inter-Juventus, a Regina Celi. Sì. Regina Celi. E quando io chiesi al mio caporedattore di allora del giorno, che era il grandissimo Giulio Signori, quante righe avrei dovuto fare su Inter-Juventus, lui mi disse 40 righe. Io dissi, ma come 40 righe? Inter-Juventus? Ma forse non hai ascoltato la radio. Ecco, noi ragazzi di 30 anni allora, che camminavamo fuori da Regina Celi cercando, nel mio caso, di ripescare qualche cognizione di diritto penale che avevo studiato pochi anni prima, di cercare di capire in quale pianeta sconosciuto fossimo capitati per quello che si chiamò il primo Toto Nero, te lo ricorderai. Come no? Il giorno delle camionette dei cellulari in campo, e non erano i telefoni. Trinca e Cruciani, eccetera, eccetera, e con gente, parlo del presidente del Milan, del portiere del Milan e di qualche altro giocatore della Lazio, del Perugia, eccetera, eccetera, li ricordiamo tutti, condotti in manette, sulle gazzelle della finanza, della polizia a Regina Celi. Beh, insomma, pensammo che quella sarebbe stata un'esperienza unica e per fortuna irripetibile. Pensammo che non ci saremmo mai più sporcati le mani e avremmo consumato le scarpe fuori da un carcere. Era soltanto la prima volta, Carlo, era soltanto la prima volta. Questo mi riempie di angoscia e mi fa sentire, come dire, subliminalmente colpevole. Però mi chiedo, ripeto, contro l'arroganza e l'idiozia di chi continua a cadere in questi errori, non possiamo niente neanche noi. Altro tema, meno difficile, la gara di domenica di Valentino Rossi. Ieri è intervenuto Silvano Galbusera, che è il Deus Ex Machina ai box di Valentino, ed è uscita questa polemica su quel motore che ha fatto fumo troppo presto. Noi era l'ultimo pensiero, perché da quando sono io non l'abbiamo mai rotto. Valentino mi ha detto dopo la gara che si ricorda Misano del 2007, una roba del genere, per cui porco Giuda, nello sport è così. No, ma comunque due motori ravvicinati così, tutti e due il terzo motore, qualche pensiero di qualche fornitura di pezzi non all'altezza può essere. Marino, diamo 10 alla sfiga, però al Mugello anche 11. Però la sfiga è aiutata bene, mi sembra. Io veramente, ha ragione Galbusera, che è un grande galantuomo, oltre che un grande meccanico, a dire che c'è qualcosa che non funziona. Io ero rimasto veramente, oggi rivendico i diritti dell'anagrafe, a quando i motori non fondevano più. Cioè l'ultimo motore che ho fuso io era quello della mia Honda 750 Ford nel 1977, e da allora in pista ne ho visti fondere veramente molti pochi di motori. Che la Yamaha possa permettersi, fra virgolette, di fare una figura del genere è completamente inaccettabile. Prima non ho dato voto perché era senza voto la categoria, che è impotente e per quanto forse non vigilante. Stavolta io un bel 3 alla Yamaha glielo do. Cioè la Yamaha non può permettersi di fare una figura del genere. Sai che ti dico, sempre rifacendomi all'anagrafe, che l'ultima figura del genere, non che riguardava il motore ma riguardava un calcolo, la Yamaha lo fece a Imola nel 1974, l'anno in cui Agostini abbandonò la MV per vincere il mondiale con la casa giapponese, e rimase senza benzina a un giro dalla fine, e vinse Bonera sulla MV, e poi Rizzo sarebbe diventato campione del mondo e Agostini avrebbe perso quel mondiale. Ecco, ancora adesso si parla di quella defiance della Yamaha di allora. Dimmi te come nel 2016 possono ancora fondere i motori. È stato un fuorigiro, è stata una fornitura sbagliata. Non può succedere, non può succedere, soprattutto quando si va su due ruote. Voto 3. Ultimo voto tema. Voto 3 di stima. Voto 3 di stima, naturalmente. 3 di stima, stiamo là, siamo di manica larga. Un ultimo voto che ti chiedo è quello della materia che stai seguendo ora. Un voto al giro di Nibali che sentiamo qui. Dentro di me magari tante volte mi sarei aspettato molto di più e sai, durante un Giro d'Italia ogni tappa è come costruire una casa, mettere mattone dopo mattone, quindi se qualcosa non va nel suo posto, non riesce a farlo per bene, quindi cerchi poi di rimediare dopo, però in questo momento sono in ritardo e c'è un ritardo da recuperare e ci sono ancora delle tappe che comunque ci possono permettere di poter ribaltare questa situazione e cercheremo di sfruttarle. Mi rendo conto che il voto in questo caso è particolarmente difficile anche per te, Marino. È un voto complesso, intanto anche la sfiga ci ha messo di suo, non è sicuramente il primo alibi né un alibi, però i suoi 30-40 secondi a un chilometro dal traguardo per un salto della catena o perlomeno per una defiance del cambio libero li ha perduti, in questo momento sarebbe a 2 minuti e poco più, non a poco meno di 3 minuti. Detto questo è chiaro che non è il Nibali del 2013 e del 2014, però è anche vero che Nibali ci ha abituato a impennate e a sorprese straordinarie, quindi io sono ancora moderatamente fiducioso, anche se i due ragazzi davanti a lui, effettivamente quelli che nessuno di noi aveva indicato come favoriti, mi sembra che siano due mastini non sì. da poco, e anche Chavez ha più possibilità di quanto non sembri. Oggi è successa una cosa brutta che nel ciclismo non deve accadere: alla partenza di Bressanone, alla presentazione dell'Astana o dell'Astana come dicono quelli che sanno parlare, uh-huh. qualcuno ha fischiato Nibali. Ecco, ste cose facciamole fare agli altri sport. Bravo. Nibali sta facendo il suo dovere, come può fare il suo dovere, non è un marziano. Oggi è una tappa, guarda, ho appena salito la Paganella, è una salita complicata con una discesa che potrebbe invogliare a fare qualcosa. Ecco, oggi potremo leggere nel volo degli uccelli di questa tappa forse qualcosa di più delle tappe che stanno per venire. Facendo gli aruspici voto 6 comunque. Il voto finale? Beh, finale? No, non l'hai detto. No, avevo capito che l'avevi detto tu, però è un 6 destinato a crescere. 6 destinato a crescere, grazie maestro. È un piacere sempre, ciao. Ciao Marino Bartoletti. Allora, mi ha raggiunto Giacomo Bagnasco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Presentato il nuovo commissario tecnico, finalmente Abemus Papam. Sì, lo sapevamo che era lui, comunque. È stato incoronato e ha pure parlato. Ha pure parlato un po' in italiano. Addirittura, lo sentiamo, l'irlandese O'Shea. It's lo stesso lavoro, ma un title differente. That's all. So che devo lavorare through tutti i sistemi. It's a great job. It's a great job. So I'm looking forward. Non vedo l'ora di lavorare con tutti, e specialmente i giocatori. Allora, anche qui uso il voto di Marino Bartoletti, all'italiano di Oshii un 6 destinato a crescere. Sì, diciamo di stima, nel senso che si è impegnato, sì. Lui fino a 15 giorni fa era a Londra ad allenare gli Arlequins, e si è presentato con una certa determinazione, con il vantaggio di una giovane età, lui ha 45 anni, questa cosa se l'è giocata, perché a un certo punto quando gli è stato chiesto, gli altri allenatori vengono qui per 4 anni, dopo fanno 2 anni abbastanza bene, poi allargano le braccia, si arrendono. Lui ha detto: io ho 45 anni, ho una carriera da fare, sono venuto qui con mia moglie e le mie figlie, vivremo in Italia, come dire, ci crederò fino in fondo. Ecco, tecnicamente dove ci può portare? Perché dopo molti anni di commissari tecnici francesi o dell'altro emisfero, adesso ci troviamo un commissario tecnico anglofono. Sì, ma guarda, io penso che a questo punto purtroppo ultimamente anche questa vicinanza col rugby francese, una vicinanza di mentalità che è innegabile, come mediterranei, latini, diciamo quello che vogliamo, non aveva portato a grandissimi risultati. Io credo che da lui ci possiamo aspettare una grande organizzazione, e già lì ci sarà un punto in cui il rugby italiano non lo dovrà deludere, dovrà dargli disponibilità. Lui in questo inserto in cui l'abbiamo sentito, lui ci ha voluto dire che essere chiamato Director of Rugby come in Inghilterra o commissario tecnico come in Italia è la stessa cosa, però lo vedremo. Lui vorrebbe lavorare molto, l'ha detto, con le franchigie, e quindi diciamo che l'aspetto tecnico più importante, senza scendere in dettagli, è quello di riuscire, cosa che finora non è riuscita a nessuno, a amalgamare il lavoro delle franchigie, che poi sono quelle che danno i giocatori alla nazionale, il lavorare insieme. Per la prima volta i due tecnici delle franchigie quest'estate andranno in tour con la nazionale in Argentina, USA e Canada. E per il resto mi è parso realista da un lato, ha fatto un bel discorso riguardante la preparazione fisica dei giocatori, dice deve migliorare per forza, e ha fatto uno schemino a numeri proprio, ha detto l'Italia ci mette tanta passione, 20 minuti che vanno molto bene, 40 minuti siamo caliamo, esatto. 60 esatto. minuti caliamo, dopo i 60 spazio per gli avversari che ci battono. Ha detto gli avversari lo sanno, giocano su quello, certo, è chiaro. Certo. E quindi dice condizione fisica sicuramente da migliorare, il talento c'è. Gli hanno fatto questa domanda, francamente gli hanno detto, il suo predecessore ha detto che voleva vincere le Sei Nazioni, secondo lei l'Italia può? E lui ha detto di sì, ma secondo me era obbligato a dire una cosa del genere. Si è sentito il rumore del naso di Pinocchio. La cosa più interessante che ha detto invece è che lui da giocatore... Siamo realisti. Esatto. Importante progredire. Lui ha detto che da giocatore ha giocato contro l'Italia negli anni 90 ed era una grande Italia, lui c'è anche perso, certo. Dice ecco l'obiettivo sarebbe arrivare e magari migliorare. Questo è un obiettivo realistico da condividere. Facciamo un salto al Giro d'Italia, torniamo al Giro d'Italia da Pieragusto Stagi. Ciao Pieragusto. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Allora oggi si fa l'Italia di Nibali oppure no? Su ad Andalo. Ti aspetti un colpo di fantasia o di teatro da parte dello squalo? Ti posso dire già in diretta che il colpo di fantasia c'è già stato, perché sulla Mendola il campione d'Italia Vincenzo Nibali è andato all'attacco e ha costretto a più riprese la maglia rosa Kruijswijk a inseguirlo. Ha risposto anche Valverde, in questo momento c'è un gruppettino di una decina di unità con Nibali all'attacco, perché adesso stanno affrontando la discesa, in difficoltà il colombiano Esteban Chavez che è cronometrato a 40 secondi di ritardo. Quindi intanto in questo momento Nibali sta portando via il secondo posto a Chavez. Per il resto il proseguo di questo giro sarà così, Nibali a costi di fare impazzire tutti ogni giorno, in ogni momento, ad ogni chilometro, proverà a inventarsi qualcosa. E nel suo DNA, nel suo modo di intendere lo sport, nel suo modo di intendere il ciclismo. Nibali non è un attendista, è uno che può soffrire, è uno che può vivere la giornata di crisi, come lui ha ammesso, la vive e non si nasconde dietro un dito, però bisogna riconoscere che questo è un atleta di altissimo livello e fino all'ultimo lotterà alla morte per cercare di coltivare il grande sogno di fare il bis al Giro. Tatticamente non un po' presto questo attacco, puntava sulla discesa? No, guarda, io credo che lui abbia sicuramente anticipato l'azione, ma anche perché la tappa di oggi è molto corta, sono 134 km, quindi devi fare una tappa senza respiro. E effettivamente uno scalatore, un atleta come Chavez, che è un passista scalatore, una tappa come questa la soffre. E quindi questa è un'azione per mettere in difficoltà intanto Chavez. E anche vedere, misurare e mettere sotto pressione la maglia rosa, che devo dire che mi ha anche sorpreso perché ha risposto a tutti gli attacchi. Perché poi se vai avanti così, non so, o sei diventato a tutti gli effetti un piccolo Eddie Merckx, o venerdì e sabato poi sì, arriva il conto. Sì. Direi il conto può arrivare anche per Nibali, può arrivare anche per Valverde, ma è vero che Nibali però è anche vero che devono giocarsela adesso, poi perdere. Che arrivi il conto esatto. Lo vedremo ed eventualmente verrà pagato, però voglio dire se non ci provi in questi giorni è inutile portare in carrozza la maglia rosa fino al traguardo. Grazie per Augusto. Una cosa è certa, sì. ci divertiamo molto. Ci sentiamo più tardi nei GR per i risultati finali di questa giornata. Ringrazio anche Giacomo Bagnasco. Grazie a voi. E speriamo che il nuovo CT Oshi ci parleremo. A proposito, dimmi. Si dice Oshei, abbiamo scoperto Oshei. Abbiamo imparato. L'ha detto lui e ci fidiamo. Vabbè, Oshei, quindi ufficialmente Oshei. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Federico Bini in redazione. Ci sentiamo domani. Ciao. Saluti.